Ciao a tutti. Ciao. Allora, ci tenevo a ripartire dalla giornata del 22, che apposta per noi è stata una giornata molto bella e importante, e ormai era un mese, insomma, che condividevamo lo spazio del rifugio autogestito a Clavier sulla frontiera franco-italiana del Monginevro, tra solidali da varie parti d'Europa e migranti di passaggio. Abbiamo condiviso apposta questo spazio in autogestione per un mese. Nell'ultima settimana prima del 22 la situazione era diventata veramente insostenibile, perché, come potevamo immaginare, con la fine della stagione sciistica e dunque fuori dagli occhi di ricchi bianchi che andavano a sciare, insomma, in quel territorio, e si è dato largo a una fitta militarizzazione del territorio, e dunque tutte le notti e tutti i passaggi che andavano, che vanno tra l'Italia e la Francia, erano completamente militarizzati, con militari in motoslitte, ragazzini militari di 20 anni a fare esercitazioni, una vera e propria caccia al migrante, per cui militari nei boschi che facevano gli agguati ai ragazzi che cercavano di passare verso la Francia, con torce, motoslitte e ovviamente mitra in mano. E dunque, insomma, la situazione era diventata veramente insostenibile, e al rifugio c'era tanta gente, e come se non bastasse, insomma, negli ultimi giorni proprio in quella frontiera c'è stato anche questo grande presidio di questa, insomma, di Generazione Identitaria, che sono dei gruppi, insomma, neofascisti a livello internazionale, che hanno scelto proprio quei luoghi, in realtà circa mezz'ora da dove siamo con il rifugio, per cui al Colle della Scala, che è un altro, insomma, passaggio importante della Francia nella zona dell'Alta Valsusa, e hanno scelto quel luogo per fare una dimostrazione per lo più molto mediatica, però hanno costruito, diciamo, una simil frontiera, piantando delle reti, accampandosi là sul monte, al grido di difendi l'Europa, e dunque facevano dei veri e propri pattugliamenti durante la notte con visori notturni, perché ovviamente sono ben finanziati a livello economico, con tanto di elicotteri. Addirittura hanno provato a far volare un aereo, fortunatamente la compagnia ad aereo francese che doveva affittarglielo si è rifiutata, e insomma, per cui in pompa magna questi neofascisti hanno, diciamo, occupato quel territorio dove noi da mesi cerchiamo di dare il messaggio opposto, con la pratica che abbiamo portato avanti in tutto questo inverno con la rete di Brisele Frontiere. Dunque, insomma, militarizzazione aggiunta a presenza di neofascisti, diciamo che ha fatto nascere abbastanza spontaneamente, tra le tante persone che hanno attraversato il rifugio quei giorni, la volontà di dare una risposta alla luce del sole. E dunque apposta questa domenica 22, in cui era già programmata un'iniziativa, abbiamo scelto di camminare tutti insieme verso Briançon, che è la prima cittadina dalla parte francese. Il corteo è stato un corteo lungo, di una ventina di chilometri, è stato un corteo per lo più tranquillo, sì, hanno, diciamo, un paio di volte i gendarmi francesi hanno cercato di interrompere il corteo, ma molto a basso profilo, non ci sono stati scontri, ma semplicemente cercare di andare avanti in maniera determinata, quello che, diciamo, che è l'aggettivo che più attribuirei al corteo, che era di un 300 persone, che apposta in maniera determinata è andato avanti fino a Brianzone, anche in un bel clima, insomma, di gioia, di rivendicazione, di lotta, proprio, insomma, una bella giornata, e per cui, diciamo, in questo clima per lo più lasciato abbastanza tranquillo, siamo arrivati fino a Brianzon nel tardo pomeriggio, e arrivati a Brianzon c'è stato un festeggiamento di tutti, diciamo, di tutti i partecipanti al corteo, anche di chi ci ha accolto, i solidali nella città di Brianzon, E lì cosa è successo? È successo che le forze di polizia francese, la gendarmeria, ha deciso di scatenare una specie di caccia all'uomo per chiunque si allontanava dal corteo in piccoli gruppi, e dunque sono stati fermati 3 ragazzi italiani e una ragazza italiana e due svizzeri. I 3 ragazzi italiani sono stati tenuti in fermo e rilasciati il giorno dopo per inconsistenza dei fatti, perché insomma hanno potuto dimostrare di aver passato la frontiera in maniera legale, e la ragazza italiana Eleonora e i 2 ragazzi svizzeri Teo e Bastien invece gli è stato convalidato l'arresto. E l'arresto è stato convalidato su questa accusa, che è favoreggiamento all'immigrazione clandestina in bande organizzate, e sono stati trasferiti dopo 2 giorni di fermo. Con la convalida dell'arresto sono stati trasferiti in carcere. Eleonora è stata trasferita a Marsiglia, a Le Baumet, che è il carcere di Marsiglia, apposta c'è il carcere femminile, e i 2 ragazzi sono stati trasferiti al carcere di Gap. Hanno rifiutato la direttissima, però la convalida del carcere sembra sia fino alla prossima udienza, anche se adesso gli avvocati proveranno a fare un'istanza di scarcerazione prima. Comunque la prossima udienza è stata fissata per il 31 maggio, per cui e se non si riesce a fare istanza di scarcerazione prima, cosa che si proverà a fare in questi giorni, i ragazzi dovranno stare in carcere fino a fine maggio. E allora, le iniziative di solidarietà che sono state lanciate nei giorni a seguire sono state lanciate subito in Francia, ieri una a Briançon e una era prevista a Gap per oggi. E cosa è successo? Che in seguito al lancio di queste iniziative anche i 2 ragazzi svizzeri sono stati trasferiti da Gap a Marsiglia per fare in modo, insomma, di ancora una volta spezzare la solidarietà, che è ovviamente l'ovvia intenzione di tutta questa operazione. Questa operazione non fa altro per noi che apposta voler spezzare la solidarietà tra sfruttati, che sia tra i solidari, che sia tra i solidari migranti, che è quello che abbiamo cercato di rivendicare in quella giornata, e stanno cercando di spezzarla in ogni modo, apposta con lo spauracchio del carcere e della punizione per chiunque sono riusciti a prendere nel mucchio. Ripeto, insomma, i ragazzi sono stati presi in un momento in cui si allontanavano dal corteo, chi era andato a riprendere la macchina o chi era andato a raggiungere un amico, dunque li stanno, diciamo, usando come capro espiatorio e spauracchio per tutti i movimenti di solidarietà. Dunque adesso i ragazzi sono tutti e 3 a Gap, e per noi la cosa più importante in questo mese sarà a spingere tanto sulla solidarietà ai ragazzi, ai compagni, e soprattutto rilanciare quello che cerchiamo di dire da mesi, dunque che non vogliamo sulle nostre montagne né nessun altro luogo nessun tipo di fascismo, nessun tipo di razzismo, e continueremo comunque a rivendicare, poi soprattutto in un territorio dove sono 20 anni che cerchiamo di lottare contro la distruzione di una montagna per il passaggio di denaro e merci. Adesso di certo non permetteremo che quelle che non passeranno saranno proprio delle persone. Noi ti ringraziamo. L'ultima cosa che vorrei... Dimmi. No, altrimenti procedevo con le domande, finisci. Ok, no, ti dico un'ultima cosa, che a giorni lanceremo una campagna, e la campagna... farà una campagna che rivendicherà il fatto che se ad essere accusato è a me essere messa sotto processo la solidarietà, allora ci rivendichiamo di essere tutti colpevoli, rivendicheremo di essere tutti che eravamo tutti là in quella giornata con Teo, Bastien ed Eleonora, e questa campagna la lanceremo a livello internazionale. Siamo in contatto con tantissima gente che è passata nel rifugio in questo mese e che ha preso a cuore questa lotta, e dunque c'è una volontà di far partire questa campagna a livello internazionale, per cui di mettere tutte le iniziative sotto questo nome, e dunque vedrete nel giro di un paio di giorni faremo uscire tutto quanto, e quello che chiediamo è un grande sostegno, perché è quello che più serve ai ragazzi, a portare avanti questa lotta. Allora, tutto molto chiaro. Io ne sappiamo, insomma, sono usciti anche gli indirizzi per scrivere in carcere, ci si potrà aggiungere agli appuntamenti di lotta, ma come ci dicevi sarebbe bene che questa campagna, insomma, respirasse fuori dal territorio, insomma, della Val Susa. Speriamo che, insomma, si aggiungano appuntamenti. Quello che ti chiederei, insomma, si è spesso puntualizzato ultimamente, anche in maniera piuttosto strumentale, si è parlato, insomma, soltanto dell'atteggiamento della gendarmerie rispetto al controllo della frontiera, ma sappiamo, come ci descrivevi anche te, che, insomma, è una quotidianità di intervento militare italiano anche in quella frontiera, e di incursioni all'interno dei posti dove sanno che possono trovare persone immigrate. Se ti va un po' di raccontarci il meccanismo in frontiera rispetto, appunto, a quello che succede a Bardonecchia, i respingimenti, e qual è più o meno il circuito chiuso in cui vorrebbero far esprimere, appunto, la mobilità di queste persone. Certo, allora sì, io do per scontato, ovviamente, di non fare una differenza tra le forze, tra la gendarmerie francese e la polizia italiana, perché ovviamente la gestione dei flussi è una questione di accordi semplicemente tra gli stati, per cui il momento in cui sceglie di mettersi in mezzo la polizia francese più che la polizia italiana è solo una questione di accordi tra gli stati, che ovviamente sono legati ai loro interessi economici e non di certo a una gestione migliore uno dell'altro, anche perché i progetti sulle frontiere, la gestione dei flussi è gestita a tavolino, come sappiamo bene, e non è legata semplicemente a una gestione europea, ma parte già dai paesi da dove provengono tutti i migranti che cercano poi di attraversare le nostre frontiere. E dunque quello che sicuramente posso dire è che rispetto a Bardonecchia, su cui forse c'è stato il più grosso clamore mediatico, o rispetto, diciamo, all'intervento della polizia francese, è un luogo dove normalmente la polizia italiana tutti i giorni pattuglia ancora prima, pattuglia dalla stazione di Torino Porta Nuova, dove apposta partono i treni che poi arrivano a Bardonecchia, che ricordo è il paese, è uno dei paesi di frontiera insieme a Clavière più vicino alla frontiera italo-francese in Alta Val Susa, e dunque i pattugliamenti di polizia iniziano alla stazione di Porta Nuova, dove già da lì sia polizia sia militari cercano comunque di fermare la gente che cerca di salire sul treno e che è senza documenti. Vengono pattugliati anche i treni, spesso sbattuta giù anche gente con normali permessi, magari anche semplicemente perché non può dimostrare di avere abbastanza denaro per girare in Europa, o magari non dimostra di avere un biglietto di ritorno, per cui può anche avere i documenti in regola, ma quest'inverno abbiamo visto tanta gente respinta e sbattuta giù dai treni anche con documenti in regola, che poi a noi non interessi questo. No, però questo fa capire, insomma, spero sia chiaro, però è indicativo per capire, diciamo, il clima. E poi ancora di più a Bardonecchia, anche lì c'è un pattugliamento continuo sia della polizia italiana sia della polizia francese, che comunque, al di là del clamore mediatico, diciamo, degli ultimi mesi, non era una novità. La polizia francese normalmente viene alla stazione di Bardonecchia e aspetta i treni per vedere se ci sono migranti che arrivano, per cui insomma ha il via libera già da tempo, non è di certo una novità degli ultimi mesi. La differenza, quando vediamo una differenza nella gestione della frontiera rispetto alla gendarmeria o rispetto ai militari, è semplicemente legata al fatto che forse l'Italia in alcuni momenti ha sicuramente voluto lasciare andare, per cui abbiamo visto benissimo in questi mesi la grande differenza tra momenti in cui la frontiera era molto pattugliata e i momenti in cui tutto quanto era lasciato, diciamo, nell'invisibilità. E questo non è di certo legato a una buona gestione, diciamo, dello Stato italiano, ma semplicemente alla volontà in alcuni momenti di lasciare andare. E il lasciare andare ce lo siamo chiesto tanto negli ultimi mesi, spesso è stato legato al fatto di non creare, forse non far uscire il morto in una durante la stagione sciistica, forse perché non era molto meglio che questa cosa passasse nell'invisibilità piuttosto che rovinasse, diciamo, il quadretto della stagione invernale, o anche semplicemente perché spesso il passaggio dei migranti serve, perché come sappiamo, se mediaticamente tanti dicono che comunque le frontiere devono essere chiuse, tanto quanto i flussi tante volte vengono fatti passare perché ovviamente la manodopera a basso costo, se non viene dai popoli che migrano, da dove altro viene? Sì, è molto chiaro il discorso che ci portavi. Tra l'altro, appunto, parlavi di morti in frontiera, e purtroppo il regime delle frontiere ha dimostrato, insomma, tutta la sua crudezza, perché poi ha comportato la morte di una donna che voleva attraversare la frontiera ed è morta, se ricordo bene, durante il parto. E comunque ci racconta, secondo me, molto bene quello che riguarda la vita di tante persone immigrate in Italia, in Europa, sulla possibilità di accedere o meno a servizi come quello sanitario. Un po' sicuramente su questa roba bisognerebbe ragionare al di là di quello che succede in frontiera, perché è qualcosa che riguarda anche le metropoli. Io ti chiederei, approfittando, insomma, di averti al telefono, un po' di raccontarci, sappiamo, ognuno ci avrà la propria storia delle persone che avete incontrato, ma più o meno di qual è il viaggio che hanno intrapreso le persone che poi arrivano al confine, da quanto tempo attraversano la penisola, che passaggi hanno dovuto fare prima di arrivare lì? Guarda, la maggior parte delle persone che abbiamo incontrato in questo inverno, in questa primavera, la maggior parte in realtà, sicuramente sono la maggior parte provenienti dal Centro Africa, per cui tanti da paesi francofoni, è anche il motivo per cui tanti vogliono andare in Francia, perché giustamente dopo essere stati colonizzati ovviamente parlano la lingua, e dunque per tanti la Francia, diciamo, è una meta anche più semplice a livello poi di potersi ricostruire, diciamo, una nuova vita, per cui tanti apposta, soprattutto da paesi come paesi del Centro Africa, come la Guinea, la Nigeria, la Gambia, eccetera eccetera, e la maggior parte dei ragazzi in realtà non vengono direttamente, quasi tutti hanno passato già un periodo in Italia che va dai 6 mesi a 1 anno, ai 2 anni, di solito scappano tutti dai centri d'accoglienza, per cui abbiamo tante storie di ragazzi che hanno passato mesi nei centri di accoglienza italiani aspettando un documento, appesi un po' al nulla, per cui in questa situazione di attesa in cui fondamentalmente non riescono a ricrearsi una vita, non hanno un lavoro, vivono in questi luoghi in cui vengono completamente infantilizzati perché non hanno nessuna autonomia né di gestione della propria vita, dei propri spazi, dei propri orari, degli incontri, delle relazioni, niente di tutto questo, e dunque appesi in questa situazione per 6 mesi, per 1 anno o per qualcuno anche 2 anni, a un certo punto cercano ovviamente altre vie, per cui in tanti scappano da questa situazione, e una percentuale più piccola è anche gente magari arrivata da poco, e per cui per lo più tutti hanno attraversato il deserto, tanti hanno fatto il carcere in Libia e tanti escono dal carcere, ahimè, in gran parte pagando. E per le donne c'è anche la questione della tratta, per cui tante arrivano anche in questa maniera. Abbiamo anche insomma incontrato donne scappate apposta dal circuito della tratta, e per cui fanno il mare sui barconi, e poi in un modo o nell'altro cercano di attraversare l'Italia per andare verso la Francia, ripeto, magari anche semplicemente per un contatto, anche semplicemente per la lingua, anche semplicemente per andare a cercare apposta di costruirsi un po' la propria vita. Allora, se vuoi aggiungere altro c'è ancora spazio, altrimenti direi che ci andremo ad aggiornare rispetto a questa campagna e gli appuntamenti che verranno messi in campo. Guarda, ti dico una cosa in più sulla questione del sistema sanitario che avevi tirato fuori, che è interessante, che in realtà in Italia è previsto il primo soccorso, ok, per chiunque, ma è abbastanza particolare perché a noi c'è successo più di una volta quest'inverno in cui apposta abbiamo incontrato tante situazioni difficili, per lo più situazioni di ipodermie, per cui gente che provava ad attraversare e rischiava congelamenti, e per cui persone che hanno rischiato di perdere piedi, dita, eccetera eccetera, e in questi casi diciamo il servizio sanitario offre un primo soccorso, solo che questo primo soccorso è veramente un primo soccorso, nel senso che dopo poco una persona senza documenti, lo Stato italiano non sostiene più a livello economico, per cui queste persone sono praticamente sbattute in mezzo alla strada, non lo so, senza piedi, senza dita o in situazioni insomma in cui avrebbero ancora bisogno di assistenza sanitaria. La cosa bella che siamo riusciti a creare su in Val di Susa è stato di creare una rete autonoma, per cui una rete di sostegno, di accoglienza diretta, per cui gente che fosse disposta a aprire case senza aver bisogno di documenti, e per cui alcune diciamo di queste situazioni che abbiamo incontrato siamo riuscite a sostenerle in qualche modo. C'è qualcuno di questi ragazzi che adesso ancora vive in Val di Susa perché è rimasto a casa di una o di un'altra persona che ha scelto di aprire casa e diciamo di creare un'alternativa alla nostra maniera, a quello che vorrebbe essere dipinto come un buon sistema di accoglienza che è quello italiano. Beh, diciamo che si tratta di uno spirito ben diverso da quello che muove le navi militari nel Mar Mediterraneo, sempre sul concetto del primo soccorso. È il principio per il quale le persone vengono poi introdotte nei campi, partendo dagli hotspot e poi smistati o per essere deportati o appunto per essere introdotti nel circuito dell'accoglienza. Quindi sicuramente guardare un po' a specchio queste situazioni, ci racconta anche dove mettere le mani e come agire per una solidarietà concreta, diciamo, un percorso di lotta anche comune. Certo. Noi va bene, ti ringraziamo e aggiorniamoci, ecco, magari superiamo questo weekend un pochino lungo. E sappiamo che insomma sarete in questo weekend davanti il carcere e magari ci risentiamo in apertura della prossima settimana. Ok, sì, noi questo fine settimana ci sarà sicuramente un presidio al carcere di Marsiglia e poi in Alta Valsusa saremo alla stazione di Bardonecchia, che sarà, diciamo, una delle prime iniziative che faremo sul territorio. Abbiamo scelto per ovvi motivi Bardonecchia per apposta a una settimana di distanza dai fatti. Abbiamo voglia di tornare lì e fare, insomma, un presidio informativo e iniziare a lanciare questa campagna. Grazie mille, a presto. Vi invito a scrivere tutti ai ragazzi in carcere, sì, Teo, Bastien e Leonora. Gli indirizzi li trovate pubblicati, ma sia su Facebook di Brise le Frontiere, del rifugio autogestito Scegesù, di Urria, eccetera, eccetera. Dai, un abbraccio. Ok, dai. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. Ciao.